Salva Danaio con Valentina Furlanetto. Buona giornata da Valentina Furlanetto e bentrovati a questo appuntamento con Salva Danaio. Oggi parliamo di quadri, pezzi d'antiquariato, sculture, che oltre che oggetti che riempiono le case e lo spirito, possono anche considerarsi beni forse di investimento. Lo scopriremo in un periodo in cui i mercati sono incerti, i BOTI hanno rendimento intorno allo zero. Possiamo pensare di riporre il nostro denaro in opere d'arte come beni rifugio e, nel caso si voglia investire in questo settore, quali sono le insidie del mercato dell'arte, come difendersi. Infine, la crisi, come e quanto ha modificato questo settore, si sono abbassati i prezzi a pochi giorni dalla Fiera di Londra, chi sono i nuovi investitori, quali gli artisti promettenti? Ne parliamo oggi con alcuni esperti in studio e in collegamento. Se pensate di investire, se siete appassionati d'arte o di mercato, se avete a casa un quadro, una stampa, un mobile, una fotografia che pensate abbia un valore, potete chiamarci. Il numero per intervenire è l'800 24 00 24, oppure se volete mandarci un sms lo potete fare al 349 238 6666. Ma prima di affrontare il tema di oggi, diamo uno sguardo subito all'andamento della borsa. La borsa che ha aperto in negativo in Europa, ora Piazza Affari è in positivo, il FTSE All Share guadagna lo 0,16%, il FTSE MIB lo 0,21%, mentre in Europa i mercati restano con il segno meno 0,19% sia per Parigi che per Francoforte in questo istante, mentre Londra cede lo 0,18%. Una giornata quindi altalenante per le piazze finanziarie del vecchio continente, quando invece Wall Street ieri ha terminato la seduta con andamenti in rialzo. Il Dow Jones era tornato nel corso della seduta al di sopra dei 9.800 punti, poi il Dow Jones in chiusura ha guadagnato lo 0,63%, il Nasdaq è salito dello 0,64%. Questa mattina la borsa di Tokyo ha chiuso in netto rialzo, più 1,87%, meglio ancora è andata la borsa di Shanghai, che ha chiuso la seduta con un progresso dell'indice composito del 4,76%. Il listino di Shanghai, lo ricordiamo, ha riaperto i battenti oggi dopo una settimana di festa nazionale. Il prezzo del petrolio è in calo sui circuiti telematici asiatici, su prese di beneficio legate alla ripresa del dollaro. Ma ora diamo un'occhiata a ciò che sta facendo Piazza Affari e come stanno andando le azioni delle società di maggiore capitalizzazione. Allora, le migliori sono Tenaris, più 3,59%, brillante nelle prime battute di negoziazione grazie al sostegno delle valutazioni di UBS, che ha avviato la copertura con raccomandazione buy. Poi Fiat era debole all'inizio, ora guadagna l'1,73%, Unipol guadagna l'1,41%, Unipol che va bene come Banco Popolare, più 0,8%, ieri accesa dalle indiscrezioni sulle trattative con Barclays per la vendita della controllata Fibanca. Autogrill più 1,27%, invece per quanto riguarda Terna è ben impostata, più 1,03%, sull'onda della revisione, in questo caso al rialzo del giudizio espresso da Nomura. Gli analisti della banca giapponese hanno rivisto la raccomandazione da reduce a neutral e il target di prezzo da 2,8 a 2,9 euro sulle azioni della società. Infine in luce Tiscali più 2,5%, già alla vigilia questo rialzo era innescato dal via libera della Consob, l'aumento di capitale da 180 milioni. Per quanto riguarda i segni, meno in questo momento Prismian cede lo 0,69%, invece Geox cede lo 0,67%, sono le peggiori del listino. Ma torniamo a parlare di mercato dell'arte e vi presento innanzitutto i nostri ospiti, che sono Marilena Pirrelli, collega di Plus 24, domani lo ricordiamo esce in edicola con Plus 24 l'inserto Art Economy 24, il settimanale dedicato all'arte come forma di investimento. Buongiorno. Buongiorno. E poi Domenico Filippotti, Art Advisor di Unicredit. Buongiorno. Buongiorno. Avremo anche al telefono negli ultimi 15 minuti della trasmissione, quindi diamo appuntamento agli ascoltatori che vogliono parlare con lui nell'ultima parte di questa puntata, con Massimo De Carlo, gallerista della Galleria Massimo De Carlo di Milano. Prima di parlare con voi ospiti, ma anche con voi ascoltatori che volete chiamarci all'800240024, io darei qualche spunto di riflessione in questa scheda che è stata preparata dalla nostra redazione. Mercati incerti, borse in cerca di una direzione. Per uscire da questa situazione, molti risparmiatori stanno riscoprendo i cosiddetti beni rifugio, una sorta di tetto sotto cui ripararsi dai temporali finanziari, garantendosi comunque una discreta rendita. Danno infatti a chi li possiede la possibilità di rivenderli dopo anni ad un prezzo quasi sempre superiore rispetto a quello a cui sono stati acquistati. Una delle opportunità più interessanti di questo settore per i risparmiatori è sicuramente l'investimento in opere d'arte. Bisogna però stare attenti e rispettare alcune regole prima di acquistarle. L'oggetto deve innanzitutto essere di ottima qualità e in perfetto stato di conservazione. Inoltre, deve essere certo chi è l'autore e a quale periodo storico appartiene l'opera. Infine, il rapporto qualità-prezzo deve essere equo. Tuttavia, se questo settore offre molte opportunità, nasconde anche qualche insidia. Per i non addetti ai lavori, infatti, è difficile scegliere quale opera acquistare, a quale prezzo e soprattutto quando rivenderla. Per questo molte banche cercano di aiutare i risparmiatori. Alcuni istituti di credito hanno infatti creato appositi uffici di consulenza per l'investimento in opere d'arte ed in alcuni casi si appoggiano anche sull'esperienza delle grandi case d'asta mondiali. C'è però un punto fondamentale da tenere presente. L'orizzonte temporale deve essere sufficientemente lungo. L'investimento in questi beni richiede infatti un certo grado di pazienza. Allora, Marilena Pirrelli, collega del Sole 24 Ore, quindi stiamo parlando di arte come investimento, ma stiamo parlando anche del mercato dell'arte in tempo di crisi. Prima parlando assieme ricordavamo il momento del 15 settembre 2008, un momento veramente curioso anche, perché insomma nello stesso giorno, forse lo ricorderete, la banca d'affari Lehman Brothers è fallita. In quella giornata i telegiornali mostravano gli impiegati che uscivano proprio dalla banca d'affari con gli scatoloni. Nello stesso giorno è stata abbattuta un'opera d'arte di Damien Hirst, uno degli artisti più quotati del mercato d'arte contemporaneo, a un prezzo stratosferico, una cifra che tu mi dicevi forse qualche settimana o mese dopo insomma sarebbe stata fortemente ridimensionata. La crisi quindi ha intaccato il mercato dell'arte. Sì, il 15 settembre è una data che segna due cose fondamentali. La punta massima della bolla nel mercato dell'arte, con tutta una collezione di opere prodotte, quindi 223 opere prodotte da Damien Hirst e portate direttamente dall'artista in asta da Sotheby's, è venute per 114,4 milioni di pound, di sterline, mentre il Dow Jones crollava di 500 punti. Da quel momento in poi, come dire, il mercato dell'arte, come i mercati finanziari, ha osservato un lento, non immediato, ma lento calo. Cosa è successo quindi nei mesi successivi? Nei mesi successivi abbiamo osservato, sia nelle aste di novembre che poi già in quelle del 2009, del primo semestre del 2009, un lento calo, non immediato. Hanno perso valore gli artisti contemporanei più, come dire, di moda, le opere più replicate, mentre ha tenuto sul mercato, sia in galleria che in asta, gli artisti più storicizzati, gli artisti che hanno una qualità nella produzione, una unicità nella produzione, per cui artisti come Damien Hirst, Murakami, Jeff Koons, Richard Price, che spesso hanno ripetuto i temi della loro arte, hanno visto dimezzati del 40% poi nelle aste successive i loro valori. Però cosa è successo? Per esempio l'asta dello scorso 23 settembre già a Londra da Christie's, un Flower di Andy Warhol è passato a valori non così lontani da quelli del 2007, 1,1 milioni di dollari, il che vuol dire che per artisti consolidati e che hanno un posto sicuro in collezione il valore rimane rimane tutto sommato confermato. Ciò però non significa che il mercato non sia cambiato, perché naturalmente dopo la crisi finanziaria una fetta del mercato che era composta da come dire, i nuovi ricchi, i bankers che guadagnavano bonus milionari all'anno, in qualche modo sono usciti dal mercato, e il mercato ha un po' stretto le file, è diventato il mercato un po' di sempre, però che si è allargato geograficamente. Questo mercato è più largo, questo mercato è un mercato che ha visto entrare altri paesi come i paesi arabi o i paesi dell'area asiatica, ed è un mercato che in qualche modo continua ad acquistare le opere più significative. Scusate, c'è stata un'interferenza chiaramente di qualche strumentazione elettronica. Continuiamo a parlarne con Domenico Filipponi. Mi dispiace, ho pronunciato erroneamente il suo nome prima, responsabile Art Advisor di UniCredit. Quindi adesso su che tipo di mercato si può puntare? E poi il mercato dell'arte può essere considerato un bene rifugio? Credo di sì, ovviamente con il distinguo, parlo ovviamente del mio punto di osservazione, del confronto che ho quotidianamente con i clienti di UniCredit Private Banking. Io lavoro appunto nel settore del Private Banking di UniCredit, e cioè non si può prescindere dall'interesse, dalla passione o quantomeno dalla curiosità di chi si avvicina a questo mercato nei confronti delle opere d'arte. Spendere unicamente come fosse un titolo finanziario l'acquisto di un'opera d'arte, come diversificazione finanziaria pure semplice dei propri investimenti, è qualcosa che noi come UniCredit, parlo ovviamente appunto soltanto per UniCredit perché poi il panorama esterno in questo ambito è molto più ampio, ma la nostra posizione è proprio quella invece di non spingere, di non credere necessariamente che soltanto dal punto di vista finanziario l'investimento in arte possa reggere. Dopodiché, se sostenuto appunto da interesse, curiosità o passione, se l'acquisto è condotto in modo corretto, attento, con tutte le precauzioni del caso, e come si diceva appunto, avendo di fronte a sé un orizzonte temporale medio o lungo, a seconda poi ovviamente della tipologia di opere e di artisti a cui ci si rivolge, io credo che l'acquisto appunto di un'opera d'arte possa poi essere un valido strumento sicuramente per diversificare il proprio patrimonio e nel medio-lungo periodo, stante appunto le cose già anticipate, rivelarsi anche un buon investimento. Ovviamente, ecco, non ci sono parametri, e credo che chi li dia insomma sia così un po' forse leggero, non ci sono parametri precisi nel poter dire quanto annualmente possa rendere un investimento in arte. Si può soltanto dire che appunto, perlomeno sulla base di rilevazioni anche passate, in un periodo lungo, medio lungo, ci possono essere degli incrementi interessanti. Bentornati a Salva Danaio, oggi parliamo con voi di opere d'arte. Ci stanno arrivando moltissimi messaggi al 349-238-6666. È proprio vero che in tutte le famiglie italiane ci sono, se non delle vere e proprie opere d'arte, comunque dei pezzi d'arredo, magari d'antiquariato, oppure dei quadri che possono o non possono avere un valore. Ne stiamo parlando con alcuni ospiti che ci stanno aiutando a cercare di capire come va il mercato dell'arte. Domenico Filippi Potti, Art Advisor di UniCredit, e poi Marilena Pirrelli, collega di Plus 24 di Art Economy 24. Poi ne vogliamo parlare anche con voi che ci ascoltate e che ci state telefonando all'800 24 00 24. Abbiamo in linea Nicolò dalla provincia di Grosseto, buongiorno. Buongiorno. Dica. Saluto tutti i presenti, gli ascoltatori, anche Domenico Filipponi che forse riconoscerà la mia voce. Dunque, Io faccio un breve intervento per quanto riguarda, diciamo, le qualità come asset class dell'opera d'arte, in quanto dal mio punto di vista ci sono tre o quattro ostacoli che impediscono di poter classificare l'opera d'arte. Qui parlo solo dell'arte, diciamo, antica, quindi già storicizzata, in quanto l'arte contemporanea dal mio punto di vista è un po' troppo pericolosa per poter essere presa in considerazione. Diciamo, le caratteristiche principali dal mio punto di vista di un investimento devono essere la liquidabilità, la trasparenza dei prezzi e le condizioni in cui una transazione può essere portata a termine. Come è evidente, dal primo punto la liquidabilità di un'opera d'arte è molto aleatoria, perché uno può mettere in asta un dipinto, può anche prezzarlo in una maniera congrua, ma si può non trovare il compratore, cosa che di questi tempi anche per opere di una certa qualità si è visto accadere. Per quanto riguarda la trasparenza del mercato, ci sono adesso forse con internet un po' meno, ma sempre delle grandi asimmetrie informative. Sì, di questo quindi, infatti, sarebbe da parlarne abbondantemente. Grazie Nicolò. Scusi, ma ci sono molti ascoltatori, abbiamo capito comunque il tema del quale voleva parlare. Giro la domanda a Domenico Filipponi. Diciamo tutti gli elementi che Nicolò ha fatto emergere sono assolutamente condivisibili, ma è proprio in effetti la direzione in cui negli ultimi anni è sempre di più, grazie anche appunto all'attenzione dei media e dei giornali e della stampa specializzata, si sta cercando di lavorare per quanto riguarda la situazione del mercato del collezionismo in Italia. Non a caso anche il servizio di Art Advisory, di cui molte banche, Unicredit devo dire per prima in Italia, si è dotata nei confronti appunto di consulenza alla clientela, va in questa direzione, cioè cercare di affiancare i clienti in così nella conoscenza di un mondo che non è trasparente, non è regolamentato, che ha delle dinamiche così molto particolari e che di conseguenza necessita un approccio specialistico. Quindi, che cosa fa esattamente un Art Advisor? L'Art Advisor, parlo ovviamente per il modello che Unicredit propone ai propri clienti, è un consulente indipendente. Per indipendenza voglio dire che non agiamo in conflitto di interesse, non abbiamo una cointeressenza ad esempio negli scambi o negli acquisti o vendite delle opere d'arte che trattiamo per conto dei nostri clienti. E quello che facciamo appunto è affiancare i clienti che hanno un patrimonio rappresentato da opere d'arte o che invece intendono formarne uno, affinché appunto la gestione di questo patrimonio, sia esso in divenire o già esistente, risponda a quelle che sono poi le caratteristiche generali della gestione di un patrimonio, cioè le valutazioni dei rischi, il cercare di ottenere il massimo rendimento da questa gestione. Per quanto riguarda le opere d'arte, cercare di ottenere il massimo rendimento finché non si vendono magari non è corretto, ma almeno proteggerne il valore. Sì, e la protezione del valore di un'opera passa da mille canali, dalla una buona custodia, a un buon restauro, a un buon trasporto, al fatto appunto anche di sapere come maneggiare insomma le opere. Per quanto riguarda gli acquisti, ecco, tutte quelle analisi preventive all'acquisto che poi trasformano questo acquisto anche in un buon investimento, e che ad esempio la prima e la più ovvia è l'analisi dell'autenticità dell'opera, ma in secondo piano una cosa che molto spesso sfugge è lo stato di conservazione di un'opera. Comprare un'opera che ha subito forti restauri ovviamente non è positivo per quanto riguarda poi la finalità dell'investimento, ma analisi anche più vaghe come l'analisi del soggetto dal punto di vista commerciale. I soggetti hanno il loro peso nella valutazione appunto commerciale di un'opera, il fatto della circolazione, ecco qui apriamo forse una parentesi troppo ampia, ma come è regolamentata la circolazione delle opere d'arte in ambito italiano, in ambito europeo, le notifiche, la protezione, ecco, sono tutti dati, la fiscalità, la legalità legata, le questioni legali legate appunto alla detenzione e allo scambio di opere d'arte, sono tutti aspetti che se non vengono trattati nel modo migliore, appunto rischiano poi di rivoltarsi contro chi acquista e che nel momento in cui si trova a vendere o a rivendere, prima o dopo, appunto rischia poi di scontare quell'eventuale guadagno che l'opera magari avrebbe potuto ottenere in questo periodo se si fosse fatto tutto il dovuto prima. È un servizio a pagamento, un servizio gratuito? Per quanto riguarda Unicredit, la linea appunto è quella di offrire questo servizio non a pagamento, proprio perché soltanto in questo modo riteniamo di poterci veramente presentare ai clienti come consulenti indipendenti. Il fatto appunto di non richiedere, è vero che sono servizi, non facciamo beneficenza ovviamente come Unicredit, sono servizi che però sono ritagliati e rivolti ad una fascia di clientela molto abbastanza ristretta comunque, e su cui ovviamente la banca lavora anche. Insomma, ci sono commissioni in altri per settori. Altri servizi. Sì, questi servizi specialistici, tra cui appunto oltre all'Art Advisory, noi in Unicredit abbiamo una consulenza in campo immobiliare, ad esempio, ecco, questo genere di servizi specialistici non sono gratuiti. tutti per clienti che hanno altri servizi, sì, che usufruiscono, sì, di altri servizi. Certo, ovviamente per clienti di UniCredit. Mattia da Bergamo è in linea, buongiorno, grazie per aver atteso. Dica, è caduta la linea, mi dicono, vabbè, Andrea da Milano, cercheremo di riprendere la linea con Mattia. Andrea? Sì, ci sono. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. È un investitore, un appassionato d'arte? Allora, l'uno e l'altro, nel senso che in parte per questioni familiari, diciamo che mi sono trovato poi ad avere delle opere di interesse che avrebbero dovuto essere di interesse relativo, ma ecco, il problema sul quale io mi vorrei focalizzare è molto interessante quello che ho sentito dire adesso riguardo la questione di UniCredit, dove si può effettivamente essere consigliati su quello che è un investimento, però quello che a mio avviso manca è poi invece il modo di essere, come potrei dire, la possibilità di essere seguiti nel momento in cui si vogliano realizzare queste opere, che magari possono essere opere... Cioè nel momento in cui si voglia vendere. Esatto, esatto. Perché il privato che ha in carico, diciamo così, queste opere, trova come grossa difficoltà, la prima vera difficoltà è quella di trovare qualcuno che sia effettivamente interessato in maniera seria, perché o ci si mette a fare inserzioni su riviste o cose di questo genere, che a mio avviso non danno molto l'idea. Sì, lei chiede tempo, un intermediatore serio, insomma. Esatto. E quindi sì, essere seguiti nell'acquisto va bene, però è anche nella vendita molto facile, è molto più difficile realizzare. Lo dico perché mi sono trovato in questa situazione recentemente. Io ho per esempio una serie di sculture in avorio risalenti al XVI-XVII secolo, e mi creda, cioè, o si capita in mano dei commercianti che sono assolutamente senza scrupoli, perché ti vengono a dire no, vale veramente poco, per poi vedere le cose che sono state lasciate vendute al quadruplo del prezzo. Cioè, ecco, non c'è da questo punto di vista un appiglio che ci dica bene, io ho fatto un investimento che però so che è realizzabile poi nel momento del bisogno. Grazie Andrea. Fatto che adesso, prego, prego. Certo, no, immagino che il criterio con il quale giudicare un'opera che si ha in casa sia un po' difficile se uno non è un esperto. Marilena Pirrelli, certo, vendere è un po' difficile. Il problema di questo mercato è proprio la liquidabilità, non abbiamo una borsa telematica come per le azioni, non esiste un mercato come quello delle obbligazioni, esiste soltanto il mercato pubblico, quello delle aste. È chiaro che in asta arriva soltanto una certa tipologia di opera, difficile magari che appunto che le sculture in avorio del XVI secolo magari riescano ad avere degli acquirenti, ma non è detto. Quindi cosa c'è, cosa può offrire il mercato? Il mercato si muove ovviamente per segmenti molto ristretti di appassionati, collezionisti e mercanti, e quando si tratta di appunto vendere opere così focalizzate sia come insomma periodicità che anche come materiale e tecnica, bisogna sicuramente rivolgersi agli esperti sia di mercato che come art advisor del settore. Non è facile rintracciarli, per quello noi facciamo un lavoro sistematico di informazione sui vari settori e individuare ovviamente le persone che più limpidamente lavorano su questo mercato. Perché? Perché appunto, e qui incrociamo il conflitto di interesse, se il valutatore sarà anche colui che poi cercherà di intermediare quest'opera, è chiaro che è possibile che tenderà ad accrescere il più possibile il valore piuttosto che ad sminuirlo o venderlo, come dire, per interesse a persona a lui vicina, per poi rivenderlo. Quindi è un problema di trasparenza, di serietà, onestà, chiamiamola come la vogliamo, però è un mercato che va proprio selezionato ad persona, individuato alle persone capaci e competenti e come dire specchiate, che possano lavorare per i singoli settori. Nei singoli settori c'è tantissima, però ci sono gli operatori esperti. Spesso forse bisogna uscire dall'Italia, cioè si scopre che gli orologi li andiamo a vendere, voglio dire, in Svizzera, non si vendono in altre piazze, cioè ci sono le piazze per ogni segmento artistico, e quindi il consiglio è pian piano costruirsi un know-how e poi andare a capire qual è per l'avorio la piazza di riferimento e quali sono gli esperti di riferimento, e in ogni caso così un po' per tutti i settori. Bentornati a Salva Danaio. Stiamo parlando di opere d'arte che magari avete in casa per il piacere di possederle, come ci ricorda Christian via SMS, ma lui ci critica perché stiamo parlando anche di vil denaro. D'altra parte questo è anche un mercato, e mettere in guardia anche gli ascoltatori dei conflitti di interesse che ci possono essere, delle truffe magari, o anche semplicemente delle situazioni opache davanti alle quali si possono trovare, penso che possa essere un servizio. Diamo il benvenuto comunque a Massimo De Carlo, gallerista della Galleria Massimo De Carlo di Milano. Buongiorno. Buongiorno a lei. E benvenuto. Allora, anche con lei vogliamo parlare di arte come investimento, ma insomma anche come piacere. Innanzitutto, questa crisi ha intaccato il mercato dal suo punto di vista? Sì, il mercato insomma risente di una, come si può dire, di un restringimento della disponibilità dei collezionisti, di quelli che sono gli attori classici del mercato, e quindi inevitabilmente la crisi si fa sentire anche da noi. Per quanto riguarda gli artisti sui quali puntare la sua galleria, si occupa di arte contemporanea. Fra i nomi più grandi c'è quello di Cattelan, insomma il padovano newyorkese che ora insomma è uno degli artisti italiani più ben pagati e anche più ammirati. Ma fra gli emergenti, su chi bisogna puntare, ci chiedono gli ascoltatori anche via SMS? Più che fare nomi, così per eleganza non farei nomi, perché essendo io chiaramente un gallerista ed essendo un gallerista militante e quindi un gallerista di parte, sarei costretto a fare un elenco di artisti che lavorano con me. Detto questo, forse voglio dire la posizione dell'artista emergente diciamo... Penso che sia il caso di discuterla un attimo, nel senso che una volta l'artista emergente era quello che proponeva dei valori nuovi, era quello che esteticamente, teoricamente, filosoficamente entrava nel dibattito dell'arte contemporanea, e attraverso questo dibattito il gallerista riusciva anche, diciamo così, a crearne un valore. In questo momento... visto che prima si parlava di crisi, varrebbe la pena di dire che gli artisti emergenti sono un pochettino meno richiesti, il mercato non vuole delle novità, vuole piuttosto dei valori solidi. Il mercato, voglio dire, quando si restringe si focalizza su quegli artisti che sono in grado di dare sicurezza. Questo immagino che succeda anche in tutti gli altri tipi di mercati, quindi il mercato, che peraltro, voglio dire, sentivo prima alcune battute, non è una cosa astratta, ma è il risultato finale di pulsioni, di strattonamenti, di idee, di proposizioni che vengono fatte da tutti, dai collezionisti, dagli operatori, quindi dai galleristi, dai mercanti, dai critici, cioè è una sorta di mosaico in cui ogni tessera va dentro un disegno unico che si chiama mercato. Quando si parla di attendibilità di mercato si deve pensare appunto non ad un mercato che è manipolato da pochi intelligentoni o da pochi personaggi che non hanno scrupoli oppure che hanno più sensibilità di altri. Il mercato è il risultato di un gioco molto molto più complesso. Raffaella da Brescia, grazie per l'attesa. Sì, allora signora, il mio tema è questo. Io ho tante cose in casa che sono state acquistate nel lontano passato di mio marito, che non è più un giovanotto, diciamo così. Il tema è, adesso che mi trovo nella situazione o di realizzare o almeno di capire quello che ho in casa, ho provato a rivolgermi a quello che si dice una casa di vendita, diciamo così, di prestigio nazionale, e mi sono sentita dire, che belle cosine, sarebbero interessanti, ma non sono certificate, perché nel passato la certificazione non si usava, diciamo così. Adesso come faccio io per certificare questi quadri? Grazie, come Raffaella. Faccio per certificare queste cose molto strane e belle che mi ritrovo in casa? Ho girato, rigirato, dove vado? Mi dicono vai dall'Expertise, dove li becco? Dove sono? Chi sono? Chi sono questi esperti? Lo chiediamo a Domenico Filipponi. Beh, bisognerebbe prima sapere di che cosa parliamo, però ecco, in generale, se la casa d'aste a cui si è rivolta le ha detto che trova gli oggetti interessanti, mi sembra strano che poi non le abbia anche indicato il modo per poter procedere a questa come dire, certificazione delle opere. D'altronde, insomma, questa della certificazione, che io intendo, per quanto riguarda ad esempio i dipinti del Novecento, l'archiviazione presso le fondazioni o gli archivi di riferimento degli artisti, è qualcosa che appunto magari nel lontano passato non c'era, ma è uno di quei passi che invece così si sono ottenuti, quegli avanzamenti che si sono ottenuti negli anni, che vanno proprio nella direzione di avere un mercato più trasparente e anche più sicuro. Quindi ecco, forse bisognerebbe avere qualche dato in più e sapere da lei di che oggetti si sta parlando, per poter essere in grado magari di darle un aiuto. Lo faremo ovviamente al di fuori della trasmissione. Sì, anche perché sono molti anche gli sms che ci arrivano di monete, quadri, degli artisti, nomi di artisti, però chiaramente nel dettaglio non possiamo scendere, anche perché per ogni artista ci vorrebbe un esperto del periodo, e comunque sono informazioni dettagliate. Però mi sembra che in realtà viene fuori un panorama di pubblico abbastanza disorientato, cioè che non sa a chi rivolgersi, in mano forse non certamente a persone, come sottolineava Massimo De Carlo, truffaldine, però comunque non ci sono dei centri, non c'è una borsa, Marilena? No, certo. Abbiamo, come dicevo prima, le case d'aste a cui ci si può rivolgere, sono diverse sul territorio italiano e anche ben qualificate, che sicuramente magari non saranno poi il destino finale di queste opere, magari non scambieranno loro, non batteranno loro, però magari potranno aiutarli nell'indirizzare verso esperti della materia. Gli esperti della materia, sì, è vero, bisogna fare un po' una caccia, però se uno in qualche modo ha fatto un acquisto e dietro l'acquisto ha coltivato una conoscenza, una passione verso quell'oggetto, quell'opera, tendenzialmente dovrebbe sapere chi è il maggiore storico, il maggiore come dire, studioso della materia, e attraverso quello tendenzialmente poi si arriva a capire qual è il mercato di quel determinato periodo, di quel determinato artista. Non è semplice, internet e il web ci aiuta, noi di Art Economy siamo partiti un po' da lì, sono tanti siti sulla rete che si possono consultare anche gratuitamente, a parte le banche date sulle aste che sono Artnet e Artprice, comunque ci sono anche Artsvalue in Italia, comunque ci sono tanti siti, appunto i siti delle fondazioni, degli archivi, ci sono, per quanto riguarda le opere rubate, il sito dei carabinieri per il patrimonio culturale, piuttosto che il MIBAC, dove in qualche modo, o attraverso le sovrintendenze stesse, andare a ricercare gli esperti della materia. È vero, non è un mercato regolamentato e circoscritto, però è un mercato diffuso, estremamente diffuso, nel quale sarebbe appunto necessario far incontrare la domanda e l'offerta. È proprio quello il tentativo che anche a livello di informazione si fa. Per esempio, l'ultima notizia battuta ieri che noi abbiamo scritto è che l'archivio di Franco Angeli era un archivio acquistato e poi rimaneggiato, e ha portato alla contraffazione di oltre 630 opere dell'artista romano. Ecco un esempio per capire come bisogna stare attenti, come muoversi, però in qualche modo se si fa una ricerca forse si può riduire. E poi in ogni caso scriveteci, noi abbiamo appunto una mail al giornale di Art Economy, e raccontateci, ci proveremo a rispondere. E comprate domani il supplemento con Plus. Ovviamente, come dicevamo, non sono investimenti sui quali si può contare a breve, medio termine, quindi insomma fatevi guidare anche dalla passione, dalla vostra conoscenza, e non soltanto dall'idea di insomma tornare a capo dei soldi, perché non è detto, e questo è bene sottolinearlo. Grazie ai nostri ospiti Massimo De Carlo, gallerista, Marilena Pirrelli, collega di Plus 24, e Domenico Filipponi, art advisor di Unicredit. Grazie anche a tutti voi che siete stati in ascolto. La puntata di oggi termina qui. Un ringraziamento ad Alessandro Longoni e Gaia Romani in redazione, in regia Carmelo Lauricella. Da Valentina Furlanetto, buon fine settimana a tutti. Salva Danaio e Deborah Rosciani tornano lunedì.